Buona serata, buon venerdì a tutti voi. Siamo giunti all'ultimo appuntamento della settimana con Hard and Heavy. Ogni sera dalle 20 alle 21 su Rock FM, la voce di Marco Gravelli a darvi il ben ritrovati, il benvenuto, come dicevamo, con il nostro doppio appuntamento. Doppio perché è suddiviso in due parti. Il venerdì è sempre dedicato ai live. Prima parte con i Queensryche, seconda parte con gli Exciter. Due generi di musica legati al mondo dell'hard rock e dell'heavy metal, completamente differenti comunque come proposte musicali. Come sempre noi andiamo a ringraziare lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi, numero 1 a Milano, nonché il sito internet dove potete trovare e vedere tutti i prodotti, i vari biglietti per i concerti, www.mariposadischi.it. E ringrazio il nostro Simone che ha preparato la tracklist e le note biografiche delle due band. Andiamo a prendere in esame questa formazione americana da Seattle, cioè i Queensryche, tanto amata anche dagli italiani, che purtroppo avrebbero dovuto suonare alla fine dello scorso anno anche qua in Italia e tutto è stato rimandato. Speriamo che possano ritornare in questo 2008. Sono usciti diversi album dal vivo nella loro carriera. Il primo uscì nel 1991, che arrivò al numero 38 in America, era Operation Live Crime, praticamente era l'album Operation Mind Crime riproposto dal vivo. E poi recentemente è uscito anche un CD DVD con Operation Mind Crime 2, dove ancora una volta si ripropone sia il Mind Crime 1 che il Mind Crime 2. In mezzo a questi due prodotti live è uscito questo nel 2001, il primo con l'etichetta Century Records, ed era un doppio CD, anche DVD. Il lavoro si intitola Live Evolution ed è suddiviso in quattro parti, praticamente ripercorre tutta la carriera, tutta la storia della formazione in questione. Quindi si va dal loro primo EP fino alla Rage Suite, poi il Mindcrime Suite con tantissimi brani appunto di Operation Mindcrime. Andiamo poi a prendere la terza parte suddivisa dagli album Empire, Promised Land e gli ultimi, che vanno alle ultime proposte della band, sino all'album Q2K, suddiviso quindi in quattro suite. Ci sono 30 brani in totale ed è veramente una grande opera, perché avrete modo di ascoltare, beh, questa sera soltanto 5 brani, però tutta la carriera dal vivo, o quasi, con i migliori lavori della band, una sorta di best of dal vivo. E allora ricordiamo che nella formazione primaria i Queensryche erano Geoff Tate alla voce, Chris DeGarmo, Michael Wilton alle chitarre, Eddie Jackson al basso, Scott Rockenfield alla batteria. Andiamo a proporre il primo brano di questa sera. Non andiamo a livello cronologico come storia, salteremo da album in album. Dalla Mindcrime Suite andiamo a proporre il brano intitolato I Remember Now. Revolution, Revolution Calling, Queensryche dal loro album Operation Live Crime. Il gruppo, abbiamo detto, arriva da Seattle, nasce nel 1981 con il nome di The Mob. Ed importante fu l'ingresso del bravissimo cantante Geoff Tate. All'epoca proveniva da un gruppo chiamato Myth. La sua voce è decisamente una delle migliori in assoluto del panorama hard rock. Registrano un demo dal titolo Queen of the Rake, che però non gli fece ottenere alcun contratto. Così nel 1982 decidono di cambiare il nome nell'attuale Queensryche, che è praticamente la sintesi di Queen of the Reich, e con questo nome nel 1983 si autoproducono e distribuiscono questo EP di 5 tracce, che ebbe un buon successo, un buon seguito nell'underground, tanto che gli permise di ottenere il primo contratto dell'etichetta EMI, che subito ripubblicò il lavoro. Arrivano così al vero e proprio album d'esordio nel 1984, si intitola The Warning. Gli permise di andare in tour in Giappone come supporter di Kiss e Ronnie James Dio. Arrivarono al numero 61 in America nelle charts e ricevettero lodi soprattutto dal paese del Sol Levante. Altro brano che andiamo a proporre, ripeto, questo è un doppio CD, quindi ben 30 brani della loro carriera. Abbiamo ascoltato Revolution Calling, che fa parte della suite Mindcrime. Andiamo ora nell'altra suite, quella che comprende gli album da Empire a Promised Land, e andiamo a proporre le note proprio del motivo intitolato Empire. Years later! Fire, titolo di uno dei loro più importanti lavori, titolo anche di questo brano dal doppio CD Live Evolution, uscito nel 2001, registrato nel 2000 al Moore Theater di Seattle, praticamente a casa loro, direttamente a casa loro. Queensryche con noi in questa fase dell'appuntamento consueto del venerdì con i live in Arden Davy. Stiamo parlando della band e continuiamo a proporre la loro storia. Arriviamo al 1986 con la pubblicazione di Rage for Order, in linea con l'album d'esordio, mentre il primo successo comincia ad arrivare con il famoso concept considerato uno dei loro capolavori, cioè Operation Mindcrime, uscito nel 1988, che arrivò alla 50ª posizione non solo in America ma anche in Inghilterra, è considerato appunto un vero e proprio capolavoro dell'epoca. La consacrazione arrivò con lo splendido doppio Empire 1990, che vendette ben 3 milioni di copie negli States, tanto che arrivò al numero 7 e al numero 13 in Inghilterra. Stiamo parlando naturalmente delle classifiche di vendita. Con questo successo i Queensryche affrontano il loro primo tour da headliner, durante il quale suonarono anche per intero il lavoro Operation Mindcrime, ed è grazie a ciò che fu registrato Operation Live Crime, il loro primo album dei tre importanti della loro carriera. Dopo Revolution Calling abbiamo ascoltato Empire, andiamo questa volta alla prima fase della storia della band, ripeto, perché questo doppio CD è suddiviso in tutte le in quattro suite che ripercorrono proprio la carriera del gruppo, e andiamo a proporre questo brano, uno dei primissimi della loro storia, Queen of the Right. Queen of the Right! Sure. Queen of the Reich, Queensryche, con il doppio CD live. Ripeto, esiste, se non sbaglio, anche il DVD di questo concerto, di questo prodotto che vi stiamo proponendo questa sera e che ripercorre un po' tutta la carriera con alcune delle canzoni più importanti della storia della band. Arriviamo alla pubblicazione di un album che in un certo senso dà una svolta alla loro musica, cioè Promised Land del 1994, che a livello di vendite comunque gli ha dato ragione, tanto da raggiungere la terza posizione negli States. Seguono altri album che si distaccano musicalmente da quanto proposto, a partire da Here in the Now Frontier del 1997, che nonostante il 19° posto in America e Germania delude i fan della band, tanto che il chitarrista Chris DeGarmo lascia, abbandona il gruppo. Il suo posto fu preso da Kelly Gray, che aveva già suonato con Geoff nei Myth. Nonostante ciò, la band era in declino, complice anche un album decisamente non bello bello, ovvero sia Q2K del 1999. Segue un tour di spalla agli Iron Maiden e la registrazione di questo tour con la pubblicazione di questo live che vi stiamo proponendo, cioè Live Evolution. Dopo soli 3 anni Kelly Gray però lascia il gruppo e pertanto i Queensryche registrano un nuovo album dal titolo Tribe con la partecipazione di DeGarmo, che comunque non rientrò nel gruppo, ed infatti il nuovo chitarrista fu Mike Stone. Ritorniamo alla musica, ritorniamo ai loro grandi successi, è la volta di Jet City Woman. Jet City Woman, il gruppo è quello dei Queensryche, dal doppio live CD intitolato appunto Live Evolution. Siamo agli sgoccioli con la storia della band, siamo nel 2004 quando finalmente il gruppo decide di ritornare musicalmente al primo periodo della loro storia, e in effetti nel 2006 pubblicano l'album Operation Mindcrime 2, che prosegue il concept Operation Mindcrime. Vanno in tour, portano dal vivo sia l'Operation Mindcrime 1 che il 2, e da qui viene pubblicato appunto un CD e DVD, Mindcrime and the More, dove suonano entrambi appunto le opere, i concept Operation Mind, con tanto di special guest con Ronnie James Dio nei panni del Dr. X. Infine nel novembre dello scorso anno è uscito anche un album solo di cover dal titolo Take Cover. Con questo chiudiamo, e chiudiamo con un altro grande brano, I Don't Believe in Love, che fa parte di Mindcrime, della suite Mindcrime, da questo doppio Live Evolution, il secondo album dal vivo della formazione. E tra breve, nella seconda parte, prenderemo in esame e proporremo il primo live degli Exciter. Seconda parte per questo venerdì sera di Arden Devi Live. Dopo Queensryche ci trasferiamo in quel di New York. Abbandoniamo Seattle, rimaniamo negli States, andiamo a New York con una band importante, nata addirittura nel lontano 1981 per quanto riguarda il genere musicale thrash metal. Stiamo parlando e parleremo e ascolteremo musica dal vivo degli Anthrax, con uno dei tanti album live, soprattutto in questi anni 2000, in questa ultima fase tra reunion e non reunion. Hanno pubblicato diversi CD, DVD dal vivo. Noi ne prendiamo in considerazione uno, questo Music of Mass Destruction, che riguarda una serata, esattamente quella del dicembre 2003, registrata dal vivo al Metro di Chicago, Illinois. È un concerto intero, e esce come CD con 12 tracce e come DVD con 18 tracce. Incisione spettacolare, ve ne renderete conto, band molto in forma, con Charlie Benante, batteria, Scott Ian alla chitarra, Frank Bello al basso, John Bush alla voce e poi alla lead guitar abbiamo Rob Caggiano. Questo è la lineup dell'epoca, 5 anni fa, 2003. Il brano che andiamo a proporre subito per rompere gli indugi è un classico della band, si intitola Got the Time, The Anthrax. Are you ready for Anthrax's heavy metal? You sound great, you look great, you are great. As always, this is the heavy metal capital of the United States, Chicago, Illinois. We're gonna have some fucking fun. Are you with us out there? Then maybe it's time to do a little dancing. Frankie Bello! Come on! Come on! Come on! The day to get through now, got another man to see, got a gun on the telephone, well, gotta find a piece of paper, sit down, got another letter to write, think hard, gotta get a letter to say, little ringing on the telephone, whoa, no, gotta write another letter, no such thing as tomorrow, oh, it won't, got the time, ticking in my ear, got the time, ticking in my ear, got the time, ticking in my ear, ticking in my ear, come on, ticking in my ear, sing it, ticking in my head. What I'm doing today? Will you shut up, get out of my way? Someone else in the town is, I don't know, they know I gotta go now. No time, trying to get a watch of it. No time, never got a thing to wear. Little ringing on the telephone, whoa, no, you're ringing in my head now. No such thing as a fall. Oh, we won't. Got the time, tick, tick, tick in my head. Got the time, tick, tick, tick in my head. Got the time, tick, tick, tick in my head. Tick in my head, come on. Tick in my head, sing it. Tick in my head. Inizio questo, questo era God the Time, un mega classicone sparato a mille dagli Anthrax. Abbiamo detto 1981, esattamente il mese di nascita della band è il luglio dell'81, quando il chitarrista Scott Ian a New York insieme ad un altro chitarrista, Dan Linker, formano praticamente la band insieme al batterista Dave Weiss, il bassista Paul Kane e il primo cantante John Connelly. Ed è proprio il secondo chitarrista Linker a trovare il nome alla band, cioè Anthrax, un morbo contratto dagli animali e in rari casi anche dalle persone. All'inizio loro suonano cover di vecchi classici e debuttano dal vivo in un concorso, il Battle of the Bands, nel quale riescono a vincere. Vengono reclutati Neil Turbin come nuovo cantante, Greg D'Angelo alla batteria e Greg Walls al basso. Un demo e un concerto di supporto ai Manowar danno agli Anthrax l'opportunità di entrare in studio con Ross The Boss, all'epoca chitarrista dei Manowar, che va a produrre il loro primo singolo, Soldiers of Metal. Nel frattempo Walls viene sostituito da Bob Berry e anche Greg D'Angelo, che poi entrerà nei White Lion, se ne va ed entra Charlie Benante, mentre Dan Linker passa a suonare il basso e arriva il chitarrista Dan Spitz dagli Overkill. John Zazula diventa il loro manager. I cinque iniziano a registrare un demo e da questo, diciamo una preproduzione, e da questo il primo album, che esce nel 1993 su Megaforce Record. Si intitolava Fistful of Metal, un buon lavoro, anche se la produzione di Carl Kennedy dei Rhodes non faceva gridare al miracolo. Comunque si tratta veramente di un buon album. Altro brano che andiamo a proporre ed ascoltare si intitola Cold in a Mosh, da questo album dal vivo, album CD e DVD, pubblicato per la BMG Records nel 2003, e si intitola Music of Mass Destruction, e questo è appunto Cold in a Mosh, Anthrax. We'll be right back. per problemi legati all'alcol, il primo chitarrista Dan Lilker, poi passato a suonare il basso, viene allontanato dalla band e sostituito da Frank Bello. Nell'84 partono in tour con i Raven e poi a quel punto se ne va anche Turbin, che viene sostituito dal nuovo cantante Joey Belladonna, proveniente dai Bubble Black, con il produttore all'epoca abbastanza famoso, cioè Carl Kennedy. Incidono il loro album Spreading the Disease. Spreading the Disease esce nel 1985 e diventa un classico del thrash metal, sicuramente una pietra miliare, così anche come il seguente Among the Living. Among the Living funziona molto bene nelle charts di vendita americane e anche inglesi, grazie soprattutto ai singoli I Am the Law e I Am the Man. E con questo lavoro abbiamo raggiunto l'annata 1987. Leggermente deludente, carenza di contenuti, il seguente album, cioè State of Euphoria, che arriva nella fase finale degli anni 80, cioè 1988, nonostante una buona produzione affidata a Mark Dodson. E lì troviamo una cover di un brano dei francesi Trust, Antisocial, che andremo a proporvi. Da segnalare che spesso gli Anthrax nella loro carriera propongono cover, ricordiamo alcune dei Black Sabbath, appunto questa dei Trust, un paio dei Sex Pistols, poi ci sarà anche un periodo dove vanno a proporre cover più legate al mondo dell'hip hop, cioè Bring the Noise, eccetera eccetera. Ma ci concentriamo appunto sull'album State of Euphoria, dove appariva questa Antisocial, da loro riproposta e rifatta. Anthrax, let's go. Feel out of it. Trax dal vivo in quel di Chicago, 5 dicembre 2003, pubblicato un anno dopo nel 2004, questo CD DVD, ripeto, il DVD contiene l'intero concerto 18 tracce, il CD audio soltanto 12 tracce. Questa era Antisocial, una delle tante cover che loro hanno proposto all'interno della loro lunghissima carriera. La band è ancora in mega attività, questo dobbiamo sottolinearlo. Anzi, continuiamo a dire che alla fine degli anni 80 vanno a pubblicare un altro buon lavoro che si intitola Persistence of Time, che purtroppo avrebbe dovuto essere registrato interamente a Los Angeles. Gli studi in cui stanno registrando l'album prendono fuoco, quindi si trasferiscono poi in quel di, abbandonando New York, in quel di Los Angeles. Il prodotto viene mixato da Steve Thompson e da Michael Barbiero e pubblicato nel settembre del 1990. A ruota nel 91 esce la prima diciamo così antologia, un po' strana perché ci sono pezzi dal vivo e delle B-side, e si intitola Attack of the Killer Bees. Poi da lì inizia il rapporto con il mondo hip hop, che culmina con un tour insieme ai Public Enemy e la pubblicazione di Bring the Noise, un classico proprio dei Public Enemy risuonato insieme, un po' come hanno fatto gli Aerosmith con Walk This Way insieme a Run DMC, tanto per citare il tutto. Arriviamo al 1992, quando gli Anthrax decidono praticamente di cacciare il cantante Belladonna, che verrà sostituito appunto da John Bush, ex componente e cantante degli Armored Saint. Con lui negli anni 90, nel 93 viene pubblicato Sound of White Noise, nel 95 Stomp 44-2, e a quel punto gli Anthrax, che sono appunto in quattro, Ian Bush, Bello e il batterista Charlie Benante, creano dei propri studi personali in quelle di New York, e dopo tre anni pubblicano il lavoro intitolato Volume 8, il loro, a quanto pare, ottavo album, The Freed is Real. Siamo alla fine degli anni 90, 1999. Esce una vera e propria compilation che si intitola Return of the Killer As The Best Of, dove vi è un pezzo, Ball of Confusion, che è una cover, tanto per cambiare, dove duettano sia John Bush che il precedente cantante Belladonna. Da lì parte l'idea di perché non fare un tour con tutti e due i cantanti, cosa che poi non si è avverata. L'idea c'era, perché poi John Bush abbandona la band. Ma noi andiamo a questo punto a riproporre ancora il sound di un altro classico motivo del gruppo. Questo è I Am The Law. Call this man. Andiamo da loro, questi sono appunto gli Anthrax. Siamo agli sgoccioli, arriviamo all'ultima parte della loro storia. Quindi non c'è questa tournée nel 2001 che doveva comprendere i due cantanti, Bush e Belladonna. La band continua naturalmente la produzione. Arriva nel 2002 Rob Caggiano come nuovo chitarrista. Cambiano etichetta discografica, passano alla Century Records. E il debutto è l'album, molto buono a mio avviso, intitolato We Have Come For You All. Questo, a quest'album fa seguito poi un tour, viene pubblicato questo CD dal vivo, CD e DVD, Music of Mass Destruction, e poi il cantante Stan Bush praticamente non si capisce se se ne va lui, se viene abbandonato dalla band, perché il gruppo va in tour con il vecchio cantante, ritorna cioè Belladonna. La formazione Jan, Spitz, Belladonna, Benante e Bello si riuniscono per un tour, incidono un CD dal vivo, un DVD, un'antologia e chi più ne ha più ne metta. Questa è, diciamo, le ultime notizie. Però, terminato questo tour dal vivo e tutta la pubblicazione di queste antologie e live album, il suscitato Belladonna non fa più parte del gruppo. Il gruppo propone addirittura a Corey Taylor degli Slipknot di entrare a far parte della band. Corey ci pensa, poi a troppi impegni, dice di no e scelgono Dave Nelson, 31enne proveniente dai Devil's Eyes. Questo è il nuovo cantante della formazione degli Anthrax, con il quale non hanno ancora inciso nulla e si vedrà in futuro se riusciranno a proporre naturalmente qualcosa. Sicuramente sì, sicuramente stanno lavorando su un nuovo album che spero possa uscire al più presto. Vi lascio con l'ultimo motivo in programma, uno dei brani con i quali chiudono il concerto, si intitola Only. Un grazie a voi, a risentirci a lunedì prossimo 2021, sempre su Rock FM con Hard and Heavy. Un grazie all'autore Simone, a Mariposa Dischi, il nostro sponsor, e a voi. Buon weekend, alla prossima, ciao!